ad alta voce. Valentina Carnelutti legge Febbre di Jonathan Bazzi. Nella mia famiglia si sogna tantissimo. Nella mia famiglia si sogna tantissimo. I sogni a casa dei nonni sono importanti. Sognano tutti. Sogna la tata, sogna la nonna, sogna anche lo zio Franco. Mamma, ho sognato lo zio Peppino. Alessa, mangia su nata patum. Mamma, stanotte ho sognato l'Erminia, la zia morta di un brutto male. Nei sogni i morti parlano ai miei parenti, dicono cosa devono o non devono fare, danno i numeri del lotto, annunciano chi resterà incinta, piangono se deve succedere qualcosa di brutto. Anche io sogno tanto, ma non sogno mai i morti. Faccio dei sogni che mi spaventano, uno dopo l'altro, sempre gli stessi. Due bambine zitte, mute, che si scambiano qualcosa, una caramella, su una panchina vicino a un lampione di sera. La cerimonia di inaugurazione notturna di una gigantesca navicella spaziale, una piattaforma scura di ferro nero illuminata da fasci di luce. Un lago calmo, immobile, l'acqua piattissima, con un viso di donna dai capelli lunghi e lisci che all'improvviso però si accartoccia, diventa faccia rugosa, di pietra o corteccia. Le ragazze di Non è la Rai che fanno festa coi palloncini e i coriandoli che cadono giù dal soffitto. Lo studio di un notaio, è successo qualcosa di grave. I sogni che faccio mi svegliano durante la notte, li faccio per anni. Sempre quelli, sempre gli stessi. Quando sono più grande, tornano soprattutto quando ho la febbre, continuano a terrorizzarmi. Le notti a casa dei nonni sono agitate. Io sono sonnambulo, non me ne accorgo mentre lo faccio, ma al mattino, il giorno dopo, mi dicono che durante la notte mi sono alzato, ho parlato, sono andato nelle altre stanze, ho spaventato tutti. Non lo svegliate, si raccomanda la nonna con gli zii, è pericoloso, gli viene uno shock, gli fate venire un infarto. C'è pure chi è morto perché è stato svegliato di colpo. Mi raccontano di una ragazza che ha cercato di buttarsi dal balcone mentre dormiva. L'hanno fermata appena in tempo, stava tirando su le tapparelle della cucina. Mi alzo nel sonno, all'una, alle due di notte, entro in camera dello zio Franco e di Lucia mentre stanno dormendo. Non si capisce bene cosa dico, parlo di gattini ciechi e cimiteri, di uccelli caduti dal nido e di Gesù. Ho gli occhi chiusi, il biberon sempre in mano, quello non manca mai. La mamma non vuole, ormai sono grande, per bere il latte così, dice. Ma tanto sto qua, vivo con la nonna, la mamma non può farci niente. La nonna vuole che io non cresca mai. Spesso di notte io mi piscio addosso. Mi mettono il telo di plastica trasparente per coprire il materasso, per evitare che lo macchi con la pipì che dovrei fare nel water e che invece mi inzuppa il materasso. Quando faccio la pipì a letto me ne accorgo per il freddo. Le lenzuola e il pigiama bagnato mi svegliano. Sono pesanti, mi fanno venire i brividi. Ogni tanto sento i miei parenti parlare di questa cosa che mi succede. Ma secondo te è normale? Ha 7 anni e continua a pisciarsi addosso. Pensano che io non me ne accorga che stanno parlando di me. Non è così. Sento tutto. Problema, ritardo, fatelo vedere da uno specialista. Ma faccio finta di niente. Non so perché bagno il letto. Sto dormendo, non me ne rendo conto. Mi dicono che devo stare attento. Se senti che ti scappa, tu ti alzi e vai in bagno. Ma quando si dorme, come si fa a stare attenti? I sogni che faccio mi svegliano durante la notte. Li faccio per anni. Sempre quelli, sempre gli stessi. Quando sono più grande, tornano soprattutto quando ho la febbre e continuano a terrorizzarmi. La nonna Lidia si diverte a raccontarmi le storie di quando era bambina. Mi parla delle cose che ha visto da piccola a Napoli, delle Janare, dei fantasmi dei morti, del Munacello, dei lupi mannari. La nonna minaccia di chiamarli, di farli venire qua a Rozzano, in via Verbene, se non mangio, se non faccio quello che dice lei. A volte invoca anche il diavolo. Finisci tutta la pasta che hai nel piatto che se no ti viene a prendere, lo senti? È già di là, pronto, nello sgabuzzino, ti sta aspettando. Le Janare invece, anche se mi fanno paura, mi piacciono. Adoro ascoltare le storie su di loro. Sono come delle streghe, delle fate cattive che di notte passano sotto le porte per entrare nelle case della gente. Nonna, ma come fanno? Raccontami un'altra volta delle Janare. Si appiattiscono, mi dice la nonna, si fanno sottili sottili come foglie di carta e poi scappano via veloci come anguille, fanno le trecce ai cavalli nelle stalle dopo averli cavalcati per tutta la notte e se si arrabbiano possono soffocare i bambini nel sonno. A casa dei nonni ci sono regole, leggi non scritte. È proibito capovolgere il pane a tavola, incrociare le posate, passare sotto la scala, aprire l'ombrello in casa, mettere a rischio gli specchi, rovesciare il sale. Bisogna stare attenti a tantissime cose. Porta male. È di malaugurio. State ferma, questi in mano. La nonna fa sempre dei mucchietti di sale grosso e li nasconde negli angoli delle stanze, dietro i mobili, i vasi e le porte. Quando io li vedo e le chiedo cosa sono, lei mi urla di andare via e farmi i fatti miei. Poi capisco. La nonna combatte contro le persone che ci vogliono male, che sono tante. Rozzanone è piena. Anche certe sue amiche qua del palazzo sono pericolose, false, bugiarde. Mi fanno i complimenti, dice la nonna, ma in realtà sono gelose, invidiose perché non hanno nipoti o se li hanno sono brutti. Non sono belli come il suo, non sono belli come me. La nonna è fissata con gli occhi addosso. Mi dice sempre che le persone ci mettono gli occhi in gol, che vuol dire che sono cattive, maligne e devo stare attento. Quando dobbiamo uscire per andare da qualche parte, lei mi pettina davanti allo specchio in corridoio, mi fa la riga di lato, mi mette l'acqua di rose e la crema sulla faccia, poi dice sottovoce una preghiera e mi fa il segno della croce sulla fronte. Mi dice sempre di non dare retta a nessuno, di non dare confidenza. Sono tutte puttane, qua a Rozzano c'è gente di merda. Ogni tanto la nonna Lidia va dalla cartomante. Io vorrei tanto sapere cosa le ha detto leggendole le carte o la mano, ma nessuno me lo racconta. La nonna ne parla solo con le sue amiche o con la tata, a bassa voce, per non farsi sentire. Capisco che ha fatto fare alla cartomante dei lavori, ovvero dei riti, per toglierci il malocchio, perché c'è chi usa la magia contro di noi. Ci hanno fatto la fattura, per questo siamo poveri e le cose ci vanno male. Forse i riti la nonna li ha chiesti anche per fare rimettere insieme mia madre e mio padre, ma non hanno funzionato. Mamma e papà si parlano solo a distanza e per litigare. Con la nonna e la tata andiamo spesso al centro commerciale, a volte loro rubano le cose. Si nascondono tra gli scaffali o nei camerini e staccano il prezzo dalle cose che vogliono prendere. Vestiti, fiori di stoffa, cose da mangiare, se le infilano in borsa o sotto il maglione. A volte per rischiare meno cambiano solo il prezzo. È facile soprattutto coi cartellini adesivi. Li tolgono dalle cose che costano meno e fanno cambio con quelle che costano di più. Un abito da 30.000 lire lo mettono a 8, un profumo che costa 20 lo pagano 5. I signori della sicurezza non ci scoprono mai. La nonna e la zia sono furbe, ma io ho sempre paura che prima o poi ci vada male. Il sabato mattina invece andiamo quasi sempre al mercato che fanno nel parcheggio sotto la torre della Telecom. Mi annoio da morire durante il giro tra le bancarelle della frutta, della verdura e del pesce. Però quando passiamo dalla bancarella degli animali cambia tutto. Mi illumino, corro, salto. Sono felice. Ci sono le tartarughe, gli uccellini, i pesci. A volte anche qualche cagnolino o qualche gatto appena nato. Ma non muoiono qua al freddo dentro la scatola. Vorrei abbracciarli tutti. Vorrei portarli tutti a casa con me, ma non si può. Il nonno non vuole. Salutali, li rivedi settimana prossima. Se ci sono ancora. Al mercato bisogna stare attenti perché è pieno di zingari che rubano i bambini, dice la nonna. Quando ci passano accanto io mi paralizzo. Viola, giallo, bianco, rosso, hanno addosso tutti i colori del mondo. Qualcuna ha le trecce, qualcun'altra tiene la testa avvolta in un fazzoletto annodato. Dalle loro labbra spuntano i denti d'oro. Fatti coi gioielli che rubano nelle case? Nonna, davvero? Ai piedi hanno zoccoli di legno o ciabatte di gomma con le calze di spugna. Le zingare tengono i loro bambini legati al petto, a penzoloni, con dei pezzi di stoffa. Li hanno rubati, dice la nonna, lo vedi come sono biondi? Non sono scuri come loro, quelli sono i bambini che le zingare rubano alle mamme. Quando si distraggono, loro ne approfittano, sfilano i bambini dai passeggini e li portano via, li rapiscono. Nonna, ma poi chiedono il riscatto? No, ma va, li vendono per gli organi, o se li tengono e li fanno crescere come loro, zingari, selvaggi, bestie. Li mandano a chiedere l'elemosina, li fanno vivere in mezzo alla strada. Stai attento che rapiscono anche te. Ti mettono sotto la gonna e ti portano via. I bambini dei palazzi di Via Verbene scendono a giocare in cortile. Io non ci voglio andare. Non ci vado, ho detto di no. Ma la nonna e la tata mi costringono. Ci devo andare per forza. Mi portano di peso nel prato dietro casa dove ci sono i maschi che stanno giocando a calcio. Devo giocare con loro anche se ho paura dei falli, delle storte, di cadere e spaccarmi una gamba. E poi io non so fare i tiri, i passaggi, non so scartare, non so fare niente. Quelli della mia squadra mi urlano contro, quelli dell'altra squadra invece ridono, dicono che ho il tiro a banana, che sono un mongoloide, un coglione. Non so giocare a calcio e non voglio imparare. Non so neanche andare in bicicletta senza rotelle, nessuno me l'ha insegnato, né papà né la mamma. Li vedo troppo poco, non ci hanno pensato. Imparerò a 12 anni, ma mai davvero. Basterà un niente per buttarmi a terra. Un piccolo gradino, un dislivello, un'altra bicicletta che mi passa vicino e mi fa venire l'ansia. Le rotaie del tram. Mai bicicletta, mai macchina, mai motorino. Non ci sono i soldi, la patente la fai quando sarai più grande. Andrò sempre solo a piedi. Se non si gioca a calcio, in cortile si fanno le gare di coraggio in cantina. Le cantine di Rozzano spaventano tutti. Ci vanno i tossici a farsi, ci sono i topi, le zoccole, come le chiama mia nonna. Io le immagino piene di serpenti e di pipistrelli che ti strappano i capelli. Ci si nascondono i maniaci, gli spacciatori, i serial killer di chi l'ha visto. Nonna, mi fa paura, ti prego, cambia canale. Le cantine stanno sotto ogni palazzo dell'Aller, due entrate ai lati opposti di ogni condominio. Ogni cantina è una specie di corridoio a zigzag poco illuminato con tante porte. Ogni famiglia del palazzo ha la sua porta numerata che si affaccia sul corridoio che puzza di marcio, muffa e veleno per topi. Al centro della cantina c'è la grande stanza della spazzatura, della monnezza, dicono i nonni, dove finiscono le cose che la gente butta dal balcone della cucina attraverso quella specie di tunnel verticale nascosto che a me ricorda lo scivolo dei Goonies. «Chiudi, chiudi!» urla sempre la nonna Lidia. «Non tenerlo aperto che entrano i topi, da lì risalgono gli scarafaggi!» Nelle gare di coraggio che i bambini del cortile fanno in cantina bisogna correre da una parte all'altra. «Tu lo vuoi fare? Se accetti sei un grande!» Se non accetti, sei un cagasotto. Non c'è da scherzare, in cantina si rischia davvero. Una volta ci trovo un limone spremuto con una siringa. L'ha lasciato qualche drogato, mi dice la nonna. Col limone ci si disinfetta. È appoggiato per terra, vicino alla nostra porta, sul cemento, senza piastrelle. Insieme al limone c'è una macchia di sangue. Un pomeriggio i bambini del cortile mi vengono a citofonare. Non voglio scendere. Devo farlo per accontentare la nonna. Andiamo sotto i pini, dietro il nostro palazzo, solito posto. Siamo senza pallone, giochiamo con delle palline fatte coi fogli di carta. Una delle palle finisce in cantina. Chi va a riprenderla? Facciamo la conta. Mi lavo le mani per fare del pane, per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, per sei, per sette, per otto biscotto. Tocca a me. No, da solo io non ci vado. Sei uscito tu, se non ci vai ti ci trasciniamo. Dalla porta alla fine della rampa di scale non si vede niente. La luce illumina solo il corridoio, le stanze ai lati restano al buio. Ecco la pallina, non è lontana. È finita in mezzo a due macchie di non so cosa. Cammino, entro nel nero del corridoio. Non sono solo. Un respiro. Passi. Stoffa che striscia contro la parete. Mi allungo, afferro veloce la palla di carta per terra, mi giro di scatto e mi metto a correre più forte che posso verso l'uscita. C'è qualcuno, aiuto, nonna, mi insegue. Arriva, mi prende, mi uccide. Corro verso la luce e le scale, corro e tiro un morso al foglio appallottolato. Affondo coi denti nella palla di carta, la mia paura di finire morto ammazzato. Mi si stacca un dente, uno di sotto dondolava già da qualche giorno. Chi c'era? Chi è? Urla la nonna. C'era qualcuno in cantina, c'è qualcuno, lo giuro. Non ci vado più, nonna, non ci voglio più andare. Ti sta bene, così impari. La nonna è contenta. Le cantine lei le odia. Non ci entra neanche per sbaglio. Ma le cantine a me in fondo un po' piacciono. Ci sono tanti modi di avere paura. Solo quando vado alla scuola materna io non ho paura. Per me la scuola materna è soprattutto Iaco, il compagno di classe di cui mi innamoro. Biondo, caschetto biondissimo, è il bambino più bello della mia scuola, anzi del mondo. Iaco è il bambino più bello del mondo. A 5 anni sa già leggere, è autodidatta. Gliel'hanno insegnato i suoi genitori. Dicono che sono un po' hippie, ma non so cosa vuol dire. Iaco legge i fumetti, viene a scuola col topolino, mano nella mano con sua madre. In classe Iaco è il più intelligente di tutti e a me piace tantissimo. Lo dice anche la tata quando lo vede. È carino quel bambino, è troppo bellino. È vero, zia, Iaco è il mio preferito. E a 5 anni, durante l'ultimo anno della materna, lo confesso alle mie compagne di classe. Chiedo alle mie amiche di farlo venire nella casa a forma di fungo al centro del salone dove andiamo a giocare dopo mangiato. Sono deciso, lo voglio baciare. Do alle mie compagne istruzioni molto precise. Io lo aspetto qui, nella casetta. Voi chiedetegli se vuole venire. Chiedete a Iaco se mi vuole dare un bacio. Tornano dopo pochi minuti, senza di lui. Ridono. No, non vuole venire. Jacopo non viene. Non ti vuole baciare. Però non se l'è presa. Jacopo viene lo stesso alla mia festa di compleanno a casa della mamma, l'ultima prima che la scuola materna finisca. Vengono anche alcune mie compagne, Ramona, Veronica, Evelyn. Alla mia festa Jacopo è bellissimo. Si è messo una camicia rosa salmone. I capelli biondi, d'oro, capelli dorati, gli arrivano fino alle guance. Sembra un principe. Jacopo è il mio piccolo principe. Al mio compleanno solo le femmine e Iaco. Io a scuola gioco con loro e basta, anche se ancora nessuno me lo fa pesare. Le cose che mi piacciono però già mi dicono che sono strane, ai grandi danno fastidio. A 6 anni per carnevale mi voglio vestire da Jessica Rabbit. Vorrei da morire il suo vestito ricoperto di brillantini, guanti viola, le scarpe col tacco altissimo, i capelli rossi e gonfi come una nuvola che le coprono metà faccia. Ma non si può, non ti puoi vestire da Jessica Rabbit. Mi fanno vestire da Roger, il coniglio. Voglio sempre le cose sbagliate. Chi me l'ha insegnato? Accomodatevi. Accomodatevi. Giriamo l'angolo e il medico del San Raffaele ci indica una delle porte che si aprono sul corridoio. Un ambulatorio, un ufficio, non so. La apre e uno dopo l'altro ci infiliamo nella stanza in cui tutto sta per succedere. Ci sediamo disegnando un triangolo, un lato un po' più corto, quello della distanza tra me e Marius. Il medico inizia a parlare. Ecco, colpo di tosse. Lei sa qualcosa del virus dell'HIV? Mi sfiora con lo sguardo solo il minimo indispensabile, per il resto appoggia gli occhi alla mia sinistra. Mi dà fastidio. Mi sta evitando? Siamo uno di fronte all'altro, ma solo in apparenza. Qualcosa in lui si sposta, cerca di scansarsi, non mi vuole stare davanti. È strabico. Guardo meglio, sta solo dirottando lo sguardo. E la causa sono io. O meglio, è ciò che io ora, qui, rappresento. Abbozzo una risposta. Sì. Ho letto qualcosa. È vero, nelle mie ricerche su internet ho preso in considerazione anche l'HIV. Il medico va avanti. Ecco, come sa, oggi è possibile coi farmaci. Sarò prevenuto, ma a me sembra un prete. I capelli quasi del tutto bianchi, sottili, pettinati di lato, 50 anni, 60. Gli occhi chiari, la pelle arrossata, certe vene fini in evidenza, qualche capillare spaccato, un po' di cuperose, le scarpe di pelle, mocassini, chissà quanto costano. Le calze lunghe stanno cedendo, andrebbero tirate un po' su. Il prete medico sa. Il virus parla, è pettegolo. Incontro questo dottore con l'aria da sacerdote e immediatamente lui conosce un sacco di cose di me. Vengo ricondotto a una comunità, a una storia, a una casistica. Il virus dell'HIV conferma che sei gay e che hai fatto sesso, magari troppo, in modo promiscuo. Vabbè, mica solo i froci. Ma nell'immaginario comune è quello che conta. Dica, dottore, dica pure. Io sono pronto. Preferisco questo ad altro. L'HIV oggi si tiene sotto controllo, lo so, l'ho letto. Star male e morire un giorno come tutti si vedrà, ma non ora, non subito. È questo che mi interessa. Lui però non sembra preparato alla mia reazione. Si aspettava un pianto, qualche smorfia, almeno un cenno di disperazione. Vuole di più. Puoi fare di meglio. Quando mi capita di raccontare alla gente, agli amici, al mio medico di famiglia il modo in cui ho reagito alla diagnosi, nessuno capisce come sia possibile. Perplessità, sguardi confusi. Sì, nel momento in cui scopro di avere l'HIV io sono contento, sollevato. La contrapposizione bene contro male è ingenua. Ogni cosa che attraversiamo in realtà ha gradi, disegna un paesaggio. La definizione di vette e affossamenti è relativa. Sto così da troppo tempo, non ne posso più. Non so cosa significhi essere sieropositivo, ma lo sono già. Il corpo ha giocato d'anticipo. La mia visione delle cose da un pezzo non è più quella di prima. Non sono più quello che stava bene, gestiva, sprecava il suo tempo immaginando giornate infinite a disposizione, contando sulla collaborazione muta e scontata del corpo. Malattia e morte non sono più ipotesi virtuali, ho superato il confine. Ora ho una data di scadenza. Non precisata, è vero, ma poco cambia. Sono passato dall'altra parte. Che io stia male è un dato di fatto. La malattia mi riguarda in modo esclusivo, ha scelto me, si è mischiata al mio corpo, che lo voglia o no, io e lei adesso siamo in contatto. Non sta più là fuori da qualche parte, non è più la sventura anonima indeterminata che si abbatte sempre e comunque sugli altri. HIV, va bene, ma in che fase sono? Quanti danni ha già prodotto il virus? Io non ho mai fatto il test, magari ce l'ho da 10 anni e mi ha azzerato il sistema immunitario. Prenderlo in tempo è fondamentale, ho letto. Sono in AIDS? Si può ancora fare qualcosa? Il sollievo iniziale comincia a venir meno. Stamattina, uscito dall'ambulatorio, dopo che mi hanno detto che non potevano restituirmi per intero l'esito degli esami, ho sentito Marius al telefono. L'ho chiamato dal marciapiede di Corso Buenos Aires, stava andando al lavoro. Ha chiamato il suo capo e è tornato indietro. Ciao, guarda che non me li hanno voluti ridare, probabilmente sarà positivo. Al telefono Marius sta zitto, non parla più. Bocca aperta, silenzio, voce contratta. No, non farlo. Non piangere, penso. A me va bene così. Le alternative erano tutte più spaventose di questa. Ma dai, non è grave, dico, basta curarsi. Mica è come una volta. Metto in scena questa risposta col mio ragazzo e così facendo io stesso la prendo per buona. Lui, a contatto con la mia reazione, si tranquillizza. Con questa telefonata io pongo le basi di tutto un atteggiamento a venire. Sono malato, ma risolvo comunque le cose. Ho quello che ho, ma non è un problema. Non deve esserlo. Io e Marius abbiamo 8 anni di differenza, io sono più grande, e da quando stiamo insieme spesso mi è toccato aiutarlo a fare le cose per la prima volta. Capire quanto sale mettere nell'acqua per la pasta, aprire un conto corrente, trovare un nuovo appartamento e traslocare, far girare il curriculum per trovare lavoro, prendersi cura dei gatti, comprare per la prima volta un biglietto aereo e ora accettare di essere sieropositivi. Da quella chiamata in poi io lo faccio spesso, con tutti, lo faccio in continuazione. Assumo il ruolo del rassicuratore, di chi annuncia il male e allo stesso tempo lo nega, di chi deve sbrigarsi a minimizzarlo. La malattia fa più paura finché rimane distante. Quando ti arriva addosso, tutto diventa più facile. Il terrore e il panico stanno nello spazio che precede incontri e collisioni. Sono privilegi riservati ai sani. Quindi tocca a me, lo capisco in fretta. Devo essere io, il malato, il paziente, il figlio fuori controllo, l'amico a cui è andata male, a raccontare come si sta da quest'altra parte, a dare un segno, a dimostrare che si può dire ho l'HIV senza mettersi a piangere, senza disseminare terrore. Informo gli altri per rendere questa notizia più vera, perché va fatto, non per essere rassicurato. Quello che rincuora qua, semmai, sono io. Spiego e tranquillizzo anche per evitare manifestazioni estreme. Non voglio vedere gente che perde il controllo, non voglio suscitare reazioni violente. Chiarisco, calmo magoni incipienti, faccio il punto della situazione, aggiorno un immaginario fermo agli anni Ottanta. Ripeto agli altri quello che leggo e imparo sulla mia malattia e ripetendolo agli altri provo a renderlo reale. Lo ripeto innanzitutto a me stesso. Prima di venire al San Raffaele ho avvisato il mio medico. Anche con lui ho messo in chiaro le cose. Tutto ok, gli ho detto, sono tranquillo. Era agitato, anche se ha cercato di non farlo vedere. È omosessuale, l'HIV lo tocca da vicino, non è solo lavoro. Ha mai avuto paura di prendersi il virus? Ce l'ha anche lui? Qua al San Raffaele, col dottore che mi comunica la diagnosi, faccio lo stesso. Sorrido, cerco il modo più chiaro per fargli capire che sto bene, che è una notizia che posso accettare. Lui mantiene il tono rammaricato, lo sguardo poggiato altrove. Quante ne avrà viste? Crisi, pianti, volti deformati dall'impatto con una diagnosi che cambia tutto, che ti costringe all'improvviso a rielaborare il più velocemente possibile l'immagine che hai di te. Prima, sono sano, ho tutto il tempo davanti, ho solo 30 anni. Poi, sono sieropositivo, devo curarmi, dovrò farlo per sempre. Leggo le ultime statistiche sull'aspettativa di vita. Allontano il pensiero che sia tutto finito. Prima ci si adatta e meglio si sta. Bisogna solo accettare la perdita del privilegio. Ho l'HIV. In passato queste parole equivalevano a una condanna. Tempo 1 o 2 anni e il mio corpo sarebbe stato invaso e alla fine sconfitto. Le cosiddette infezioni opportunistiche e i tumori correlati al virus mi avrebbero fatto fuori senza possibilità di invertire il processo di disfacimento del mio organismo. Non c'erano farmaci o erano troppo poco efficaci. Il decorso era sempre lo stesso. Le eccezioni rarissime. Casi da studiare, corpi miracolosi in cui il virus non progrediva. Ora non è più così. La mente lo sa, io l'ho capito, ma è una comprensione piatta, superficiale, una patina che non riesce a nascondermi la vista dello strapiombo. Scopro in me un vuoto che mi ipnotizza, una dimensione dove il pensiero non può più niente. Il mio io, ora di colpo, completamente incarnato. Il mio io è un corpo che si sa ammalare e non più un'astrazione onnipotente teorica. Segreti di cellule e sangue, lotte microscopiche che sanno proiettarsi in grande, grandissimo e decidere tutto. Sono carne vulnerabile, infestata. Sono un contenitore di sangue impuro, alterato per sempre. Un ammasso di organi e vene, cavità in cui virus molto famosi possono rintanarsi e moltiplicarsi in silenzio, senza che io me ne renda conto. Come potrò vivere sapendo di avercelo in corpo? Come posso accettare di passare il resto della mia vita con questo parassita invisibile e ineliminabile? piccola, minuscola, indimenticabile e onnipresente macchia. Il medico del San Raffaele dice che hanno già fatto anche la seconda verifica sui campioni risultati positivi, per questo i referti non erano ancora pronti. L'esito è certo, non si scappa. Ho in mano il foglio che stamattina non mi avevano voluto restituire. Gli occhi rintracciano il dato oggettivo. L'indagine sierologica ha evidenziato la presenza di anticorpi specifici anti-HIV secondo i criteri indicati dal Center for Disease Control di Atlanta. Ho contratto il virus dell'immunodeficienza umana. L'ultima cosa che sento è la voce del medico. Non sembra un contagio recente. Ed era la voce di Valentina Carnelutti, la puntata numero 7 di Febbre di Jonathan Bazzi. Questo è il ciclo scelto per voi dalla redazione di Ad Alta Voce, che ricorda un programma a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio e Jacopo De Bertoldi. La regia è di Riccardo Amorese. Come sempre potete consultare, ascoltare e riascoltare le puntate precedenti sul sito adaltavoce.rai.it. E concludiamo anche l'ascolto dedicato alla musica, all'album del 2002 Guilhermina di Tito Parish, questo artista tra Capoverde e Lisbona in Portogallo, compositore e chitarrista scelto per voi dalla redazione di Musica 3 con il brano Criolo Catein Patron.